questo. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Beh, la bellissima voce di Alessandra De Luca l'ha appena detto adesso nello spot che siamo a Vinitaly, lo dico anch'io, nello stand del consorzio tutela Vini d'Abruzzo, padiglione 12, stand E5, noi ci siamo. Daniele, si mangia Bellasio, benissimo, cioè, si mangia bene, però sì. Daniele Bellasio, intanto buongiorno a tutti, buongiorno. Si è già lamentato, ha detto abbiamo bevuto poco. Ma sì, no, per ora praticamente per ora niente. Praticamente e come niente. Per la trasmissione? E siccome è la mia prima trasferta di un certo tipo, sì, qui beh, a Verona. Il battesimo del fuoco senza vino, da Vinitaly quasi. Rimedieremo dopo, dai, rimedieremo dopo. Abbiamo già onorato un po' l'Abruzzo. Beh, certo. Io sono minimo. Anche un po' abruzzese. Sì, tu sei anche un po' tutto. Un po' tutto, qualunque... però anche un po' abruzzese. Poi oggi parlare dell'Abruzzo è bellissimo. Poi oggi bisogna festeggiare, stare vicino all'Abruzzo, coccolare l'Abruzzo, perché è il giorno giusto per coccolare l'Abruzzo. Sì. Perché il 6 aprile, adesso va bene, abbiamo parlato tanto a Radio 24, dobbiamo stare vicino all'Abruzzo e adesso qua da Vinitaly dobbiamo coccolarlo e festeggiarlo, perché l'Abruzzo riparte anche dal vino ed è giusto. Sì, beh, forse anche l'Italia, pensa che bello. Che bello. Perché quanta cultura c'è nel vino e quanta cultura c'è in Italia, ma quindi è perfetto. Io ho una passione per quelli che sanno degustare il vino. Poi se vuoi ti racconto anche come secondo me si deve comportare un uomo a cena col vino, ma poi se vuoi te lo racconto, non lo so. Ci sono delle regole. Per me sì, le regole di Marta ci sono, però noi di solito a RadioTube, caro Daniele, noi parliamo del meglio della web TV. Sì. Della social TV, sì. Di quello che ha fatto vibrare, tremare la rete. L'imperdibile. Stavolta è un po' più vino, dai, non possiamo parlare di cioè dobbiamo onorare un po', no, peraltro il vino, è molto oltre virale che... per certe cose. Allora ti faccio subito una delle mie domande trabocchetto. Qual è il video più virale in questo periodo? Della felicità, perché vogliamo essere tutti felici, c'è un ottimismo. Cioè, happy quello di Pharrell, tutti che ballano in tutte le città, c'è anche il sito, no? Il video più virale del momento. Sai in che sostanza c'è dice meglio essere felici, che insomma è una regola abbastanza un po' banale, però anche giusta. Però giusta, poi interrogheremo anche tutti coloro che stanno rendendo possibile questa avventurosissima diretta da Vinitaly, lo dicevo, stand del consorzio tutela a Vinitaly d'Abruzzo, perché già c'è un po' di persone che sono qua a salutarci. Marta, nonostante la maglietta sia cambiata. No, infatti non ho la maglietta con la scritta, ma ieri hai postato la scritta senza vergogna della mia maglietta. Quindi dicevi, il vino felicitas. Le persone che ci stanno aiutando a rendere possibile questa diretta, cioè Paolo Corleoni e Davide Ciocia che è qua, Valeria Bernardi che è a Milano. Ciao Valeria. Allora, il video più virale, chiederemo anche a loro se sono felici, se sono happy. Yeah. Il video che va stato ripreso in tutte le città, c'è anche la versione vinicola. Sì. Adesso la mostriamo alla radio, perché è una versione bicchiericola. Di happy. I bicchieri sono importanti. Paolo, ce la fai sentire? Cioè, questo tizio sta sonnando davvero i bicchieri di vino con le bacchette. Ma e sono vuoti o pieni? No, sono un po' vuoti. Sai che per fare le note diverse, vuoti, un po' pieni, poi... Però i bicchieri sono proprio bicchieri da vino, sono si vede nel video, lo trovate. Sì, facilmente. Adesso io sfiderei chiunque qua a uscirmi dei bicchieri a suonare così. Si sarà allenato, diciamo. Vabbè, secondo me sì. Ha un sacco di tempo da perdere, sicuramente. Dici? Allora, passiamo invece a parlare di vini, anche perché La musichetta sembra un po' giapponese. Sembra un po' giapponese. Beh, poi chiediamo ai nostri ospiti l'importanza dei bicchieri. Intanto gli ospiti che recupereremo strada facendo, speriamo, perché arrivare a Verona è un'impresa, arrivare alla fiera di Verona. È avventurosissimo. Intanto un ospite in studio ce l'abbiamo. Uno serio. Perché ovviamente poi noi manderemo tutto a quel paese, però un ospite serio che sa di vino e sa esattamente di cosa parleremo, infatti quando abbiamo la differenza capito... nostra esatto, lo dici esatto no? Non è vero okay, lo presenti tu perché è un Alessandro Torcoli, mm-hmm. Dirige Civiltà del Bere, che tra l'altro è una testata con un nome bellissimo, Civiltà del Bere, anche perché non molto è uno simoro, non è che uno più beve meno è civile, bisogna sposare le due cose, vedi, se no un problema, ecco, una civiltà senza bere, un bere senza civiltà sono un problema, no? Beh, in un certo senso. Soprattutto in Italia. Soprattutto in Europa, in Italia, ma nel mondo direi, visto il successo che ha il vino in tutti i paesi, anche dove le culture magari non lo prevedevano all'origine. Poi tu prima mi dicevi, è bello perché il vino si viaggia, perché dove il c'è... Il vino ti fa viaggiare nei posti più belli del mondo, perché la vigna, non so perché, ma ha scelto veramente i luoghi più meravigliosi per insomma, rendersi utile. Per cui dalla Napa Valley all'Argentina, l'Italia ovviamente, Langhe, Toscana, Abruzzo, pensiamo a quali posti ci consente di vedere il vino e la vigna. No, ma non dirglielo troppo, perché altrimenti Daniele Bellaso, invece di venire con me a Sanremo, io già gli occhietti, vabbè. Invece di venire con me a Sanremo, poi vai andare per vigne con Alessandro Tortoli. Dove c'è vigna c'è grande bellezza. Però c'è anche, ma sì, qualche battutina anche oggi, dai. Però dunque c'è un personaggio, faccio il conduttore, il mio preferito, sì, bravo. Che ha sdoganato una professione. Sì, allora a me piacciono, Alessandro, adesso ti confesso, io non sono proprio un'esperta di vino, cioè mi piacciono gli esperti di vino. Cioè io non, non sapendo, esatto, no, ma non è una dichiarazione, non è una... Ma no, anche perché però, no, sposato con figli, quindi piano, calma. Subito, geloso, ecco, esatto. Ecco. Allora, io non essendo esperta, ammiro molto quelli che ne sanno e io in particolare ho un sommelier di riferimento. Tutti uno. Noi. Sai. Qual è il tuo, Daniele? Forse è lo stesso mio. Ti spiego. Allora, vabbè, quando tu fai il critico cinematografico, cioè hai il critico di riferimento, cioè, il critico musicale, vuoi sapere chi è il mio sommelier di riferimento? Sono molto invece forse vostro. Di dirtelo, te lo mostriamo alla radio. Okay, te lo mostriamo, eccolo qua. Consistente. Ciliegia. Questo è il campione del mondo, vero? Sì. Un po' di tocchi minerali e un po' salini. Eh beh, questo è bravo. È un fine al naso. Sì, sì. Ma non è lui? No, anche lui però. Sì, però. Perché ridono? San Giovanni. Prego. È lui, lui, senti. Senti. Se lo immagino. Senti chi è? Questo è più grande. È più grande, anche Torco gli ha detto che è più grande. C'è qualcuno che ride. Sì, ci siamo. Ci siamo. È rosso. No! È rosso. È lui. Lui, è lui. E per me questo è il vero sommelier. È il vero sommelier. Allora, l'ha sdoganato un po'. Sì, ne parliamo però simpatico. Tra poco. Perché adesso abbiamo una piccola pausa perché abbiamo il... Il traffico! Ce la possiamo fare tra poco. YouTube. Beh, bentornati alla nostra puntata speciale di RadioTube. Di solito a quest'ora va in onda la replica di RadioTube del sabato, però oggi no, perché siamo a Vinitaly. Io vi dico ancora che siamo nel padiglione del, allora te lo dico bene, stand del consorzio tutela vini d'Abruzzo, padiglione 12 stand e 5. Se qualcuno fosse proprio in questo momento qua a passeggiare, sì, anche ci vogliono portare un calice, qualcosa. Portare un calice, per me è rosso, possiamo, come dice Albanese. Rosso, vabbè. Possiamo anche farci dei selfie. Non abbiamo ancora fatto il selfie, ragazzi. Adesso, poi, tra poco abbiamo una pausa e ci facciamo un selfie. Sì. Ce la facciamo. Ma prima, allora, intanto abbiamo sentito Albanese, Antonio Albanese, che ha sdoganato comicamente la professione del sommelier. Ma come l'hanno presa gli esperti veri? Perché io ho l'impressione, adesso lo dico, Bene, perché ho l'impressione che sia una categoria che si prende un po' sul serio, non lo dico con cattiveria perché adesso ci picchiano appena, però un po' sul serio quelli che capiscono di vino si prendono, dai. Che bella domanda. Dillo. Dai. Sì, effettivamente è così, anzi è un po' un problema del vino perché tutti possono capirlo con un minimo di nozione e di passione, e però sembra che ci siano solo questi, insomma, queste elite di sommelier in grado di capirlo veramente fino in fondo, per cui la gente si... S'ammutolisce quando c'è l'esperto di vino a tavola e non parliamo di un sommelier, e questo è un po' allontanato. In più c'è stato un periodo con il sommelier, questa figura ieratica, vestita in divisa, col tastevena al collo, che così sospirando annusava, cercava di comprendere, poi sentenziava, e questo naturalmente ha creato, sì, da un lato il mito del vino, ma dall'altro ha allontanato un po' di persone. Quindi quando è arrivato Albanese a sgretolare un po' questa prosopopea, direi che è stata una ventata di freschezza. Ecco, ma tu dici, è facile capirlo come civiltà del bere, qual è il primo consiglio che ti viene da dire per capire un vino? Da che cosa si deve partire se uno non è un esperto? Dal colore. Quindi aveva ragione Albanese. È rosso il video, cioè. Dal colore, nessuno lo prende seriamente in considerazione. Ma dai, ma allora se tu guardi dei bianchi, puoi trovarti di fronte a 10 cromatismi diversi che già ti possono dare qualche indicazione, ovviamente non capirai mai da dove viene, con che vitigno è fatto, finché non lo assaggi e non lo annusi, e anche in quel caso poi è difficile, ma comunque il colore ti dice già qualcosa, se è un vino fresco, giovane, se è un vino più evoluto, se è un vino consistente, quindi potrebbe essere anche un po', insomma, serio da prendere, da abbinare a delle cose importanti, oppure un vino d'aperitivo, cioè già ti parla dal colore, ma noi quasi non c'è lo guardiamo, c'è già la storia nel colore e lo trangugiamo. Ma che vedi, però allora non era così sbagliato, no, questo, anzi, questo albanese. Certo, ma la comicità. Sai cosa non abbiamo ancora fatto? Non abbiamo dato i nostri account di Twitter, sì, chiocciola Marta Cagnola, chiocciola di Bellasio. Hashtag Radio Allora facciamo Tube. Anche dal vivo, cancelletto Radio Tube. Oppure Radio Tube Etilico. A Radio Tube Etilico, infatti, ti era piaciuto. Io ho una domanda da fare sui social ad Alessandro Torcoli, ma prima vorrei ascoltare, visto che... La musica, almeno la musichetta. No, guarda, ne ho un altro pezzettino che so che okay. è un po' fortino, ragazzi. Però ci sono parole. Parolacce? Fascia protetta? Però par condicio? C'è una parolaccettina, ascoltiamolo. Ascoltiamolo. È uno Chateau Mareux del 94, Cru Le Bucheron, Dumain de Saint-Marin, Le Profumé, Champagne de Buzon, aujourd'hui. Però fa cagare. Io vabbè, tutt'oggi che rido per lo champagne lo di Bison. Champagne che gli ha mandato in lo champagne di Bison. Io tutta mattina che rido per lo champagne di Bison. Infatti Bison. Gli mandavo le mail. Ma perché secondo me non l'hai capita del tutto, però vabbè. No, no, è forse perché l'ho capita. Perché sei anche di Bologna adesso. No, di Bologna niente, no, ti purtroppo. Manca, a me non mi manca la Bologna. Mi manca Bologna. Ti manca Pignolet. Mi manca Bologna. Ah, Pignolet, vedi. Ma wow. Qua proprio altissimo, ogni come direbbe diciamo, Cruciani, siamo al top. Siccome noi parliamo di rete, non solo di questi video che allora forse Albanese non era ancora virale perché non c'era ancora. Beh, però questa, ha molte visualizzazioni. Però hanno molte visualizzazioni. Sì, infatti ho visto su YouTube che sono molto visti. Usare la rete. Intanto voglio chiederti, voi la usate molto a Civiltà del Bere? Io ho guardato il vostro account Civiltà Bere, è un po' complesso, adesso me lo ricontrollo. Come allora il vostro account Civiltà Bere, Civiltà perché non c'è l'accento, quindi Civiltà Bere. Lo usate in maniera molto divertente perché vedo che postate delle immagini carine, che postate anche così dei giochi divertenti. Come si sposa la rete col vino, il vino coi social? C'è un modo per metterli d'accordo? Ma il vino ha un grande pregio, secondo me, che parla a tanti pubblici diversi e quindi anche a livello mediatico poi sposi e declini il mezzo a seconda del tuo pubblico. Civiltà del Bere è una rivista cartacea che ha 40 anni di vita, che riporta contenuti molto seri, approfonditi. 74, grande 74, annata peraltro. La tua ottima annata. Esatto. Guarda, non è proprio la migliore, però ci stiamo avvicinando. C'è 75 ad esempio. Io non farò coming out perché vabbè, lasciamo no, perdere. Va bene, tra ragazzi, per compagni sì, di esatto. scuola. Esatto, tanto ormai i quarantenni vanno di moda, quindi che cioè non si può dire. Non si può dire. Non si può dire, non si può dire. Tutti quelli di 40 anni 39 anni non possono essere citati, magari si candidano alle elezioni. Esatto, se ci fosse un ministro. No, non possiamo parlare di politica. Io sono della data giusta, proprio quella. Non si può dire. No, comunque dicevo, un conto è la rivista cartacea che ha un certo pubblico, poi quando sei sui social è tutto un altro discorso e naturalmente anche i linguaggi cambiano, i contributi, ad esempio noi abbiamo delle scelte molto diverse tra i contenuti del sito, se banalmente, e quelli dei social, di Twitter e Facebook, perché naturalmente devi essere un pochino più leggero, parlare a tutti coloro che possano essere minimamente interessati all'argomento. Tra l'altro poi c'è anche... quello che è capitato un po' in tutti i giornali, si comincia poi a interagire col lettore, quindi il lettore vuole sapere questo argomento poi. Ma non esatto. È che magari capita qualcuno che vi twitta, sono a cena con voglio fare bella figura, no? Ah, capita di tutto, capita sì. Quello che sfonda la cantina della bisnonna defunta e ti manda la lista dei vini sperando di rivenderseli. Sperando di diventare miliardario. Insieme a un divano del 700. Normalmente è deluso profondamente dalla riserve risposta. Di aceto. Infatti. E fino a quello che a cena con la fidanzata o che si trova al supermercato, tutti interagiscono e scrivono, ma soprattutto il problema è quello di problema è anche è un vantaggio del vino che tutti, come dicevo prima, possono ritenersi se non esperti comunque sono autorizzati a esprimere un parere, ecco, sul vino, se piace o non piace. Ma la cultura del vino si sta un po' abbassando di età. Fino a un po' di anni fa era una cosa che riguardava, diciamo, in Italia, dai 40 anni in su. In Italia non ancora abbastanza, direi, mentre all'estero, ad esempio negli Stati Uniti, c'è questa categoria denominata millennials, che non riguarda solo il vino ma varie categorie merceologiche, sono veramente ventenni che si stanno avvicinando al vino in maniera completamente diversa dai genitori, e quindi anche le aziende che comunicano su quei mercati ne devono tener conto, e in maniera pesante a volte, perché non c'entra nulla col mio modo da quarantenne di affrontare il vino. Ad esempio in Italia il ventenne è ancora un po' lontano dal vino, ci arriva verso la fine dell'università, verso i 25-30 anni, allora apprezza la ricchezza e la curiosità. Anche perché l'infografica che avete postato l'altro giorno su Twitter era molto carina, sempre... mostra un'infografica alla radio. Certo che mostro, perché non posso mostrare l'infografica. Ma fra un po', ora della fine della trasmissione, facciamo assaggiare un vino alla radio. Ma anche il profumo, tutto facciamo sentire, poi è rosso. Fingere una degustazione, cercare di far immaginare al lettore com'è. E questa è la nuova, è la nuova, è rosso. No, ieri hai mostrato la mia maglietta, io oggi mostro l'infografica, c'è questa infografica molto carina che è evidentemente rivolta ai ragazzi più giovani. A qualsiasi domanda la risposta è birra, quindi certo, bisogna un po' far capire ai ragazzi, cioè cos'è, è un passaggio generazionale, un momento di maturazione, forse quando sono più giovani... Ma sì, tutto sommato il vino che è piacevolissimo, si può anche non sapere nulla per godere di un bicchiere di vino, proprio assolutamente niente di uve, niente di zone d'origine, però è un pochino complesso rispetto alla birra, almeno quella intesa in senso generico, le commerciali e industriali, chiaramente, perché anche la birra poi è un mondo interessantissimo a parte. E questa complessità richiede un minimo di maturità, di voglia di approfondire il discorso. E quando capisci che uno Chardonnay ti può dare 100 risultati diversi su 100 terre diverse, che diventa intrigante. Però ma già vuole. Sembra arte. Viene, la cosa bella è che il vino è arte. Sì, un po' mi intimidisce, posso dirti la verità, Daniele? Che un pochino... Anche Alessandro? No, adesso sto prendendo confidenza, poi gli chiederò anche un po' di consigli. Però questa cultura è... Ma è il bello che c'è la storia dietro, la passione. Dentro a un vino la cosa divertente è che puoi iniziare a leggere del dove è fatto, chi lo ha fatto, come è stato pensato, vissuto. È bello, è... A volte è anche un pretesto culturale. Per noi, peraltro, per le nostre aziende è un pretesto culturale molto importante, perché ricordiamo che l'Italia potenzialità di crescita pazzesca. Tantissime, l'export sta andando veramente bene, il settore del vitivinicolo è tra quelli in Italia che soffre meno grazie alle esportazioni, anche se purtroppo il mercato interno è un pochino in flessione, ma era atteso e fisiologico perché avevamo dei livelli piuttosto alti, ma all'estero siamo apprezzatissimi per l'enogastronomia in generale, il vino è una componente forte. Poi ti farò riparlare. Peraltro si possono trovare tutti gli ultimi dati, vino 24. Sì, perché poi ci sono un po' di novità, ne voglio anche parlare. Parliamo anche un po' di noi, tra poco parleremo un po' di novità. Ma un altro albanese? Ecco, questo volevo dire. Io prima, un'altra cosa. Cosa no, c'hai? No, prima di salutarvi, perché poi tra poco avremo un'altra pausa, perché qua come passa il tempo quando ci si beve, soprattutto. Ma ti ricordo che acqua adesso naturale, solo acqua. Guardate che qua non c'è un calice di vino, siete vergognosi. No, ma perché la 626 no, so, perché poi qua siamo in servizio. Missione. Allora io vi regalerei un ultimo albanese che è il mio preferito. Sì. E poi vabbè, abbiamo ancora qualche istante, poi un sacco di domande da fare ancora a Alessandro Torquelli. Vediamo se riescono a arrivare. La musichetta è la stessa. Infatti andiamo subito col balletto. Andiamo col balletto. Qua si balla. Profumo di mughetto, delicato, retrogusto di coriandolo, una goccia di lime e bagnoschiuma. Beh, vedi, da lasciare un po' di busone al bagnoschiuma. È bagnoschiuma, ragazzi, è così, cioè io... No, però, dal punto di vista della comicità, quegli sketch lì erano fenomenali. Erano bellissimi. Silenzio, musica, balletto e battuta finale. Ragazzi, aspetta, allora, io ho una sorpresa per Daniele Bellasio, guarda chi c'è. L'ho già visto. Che c'è andato a fare a Londra? Non c'è andato a fare a Londra, non è andato a Londra, è qua, lo facciamo entrare tra poco, non diciamo ancora chi è. No. Voglio solo capire. Anche perché l'abbiamo postato da ieri su Twitter. Con la musica? Dico solo che, voglio solo parlare di una, di una vignetta che è apparsa sul Twitter di Civiltà del Bere, perché è bellissima. Me la dico in inglese e poi la traduco e poi ci salutiamo perché abbiamo una piccola pausa. I'm a wine enthusiast, cioè sono una entusiasta del vino, sì. Diciamolo così, anche se non è la traduzione esatta. The more wine I drink, più vino bevo, the more enthusiastic I become, più divento entusiasta. Quindi noi adesso abbiamo un attimo di pausa, siamo totalmente sobri, sì, e quindi direi che la retwitto ed è il momento forse di bere qualcosa per onorare Vinitaly. Noi ci ritroviamo tra poco, dopo la pausa, tanto siamo sempre qua. Se per caso qualcuno ci stesse ascoltando proprio qui dalla fiera, siamo allo stand del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo, padiglione 12, stand E5, ci ritroviamo tra poco con un ospite straordinario. Cin cin. Radio Tube. Amici ci sono perché noi ci consideriamo amici. La donna, vabbè, c'è la moglie bellissima, c'è anche la donna più importante, che è una bimba che è, vabbè, che è cresciuta tantissimo, l'avevo vista piccolissima, è diventata grandissima. E soprattutto qui a YouTube con Daniele Bellasio, con Marta Cagnola. Oggi ci fa compagnia anche Alessandro Torcoli, che abbiamo capito che è l'unica persona seria che parla veramente di vino. Noi siamo i soliti stupidi. Abbiamo un altro grande esperto di vino. Grandissimo esperto di vino. Abbiamo in carne e ossa Omar Pedrini. Omar! Eccoci qua. Ce l'abbiamo, anzi, chiocciola Pedrini Omar. Sì, beh, ormai siamo in contatto. Online, con, no? Mi piace cognome nome come. Ma ho scoperto che anche Alessandro Torcoli ha il suo account personale, che è chiocciola Torcoli Wine. Carducci sarebbe arrabbiato, perché andava sempre prima il nome, ma me l'avevano ciulato. Sono degli sì. Te l'avevano ciulato, quindi. No, ma sei come uno dei più grandi vignaioli. Romano Dal Forno, sull'etichetta è Dal Forno Romano, esatto. Quindi ecco, sei in linea. Ecco, allora scusate che io twitto una foto che ho fatto ora. Ah, proprio in diretta, certo, io cosa faccio? Conduco a questo punto, panico. Panico da diretta. No, adesso ho twittato. Allora, intanto, vabbè, io saluto anche le persone che sono qui davanti e diciamo che Omar ha richiamato un po' l'attenzione. È perché anche un po' noi. Vabbè, dai, accontentiamoci. Omar, che ci vai a fare a Londra? No, poi non sei più andato a Londra, il disco l'hai fatto, ma sei rimasto qua. Non c'era il vino buono come qua, quindi. No. Dopo tanta birra ho preferito tornare. Alessandro Torcoli confessa che un po' si trova anche lì, si troverà con l'italiano. Mi ha fatto sorridere questa cosa, è veramente a pennello calza, perché che ci vado a fare a Londra, e io mi sono ritrovato dopo 20 anni a tornare a studiare a Londra il vino, e tutti mi domandano che ci vai a fare a Londra, a studiare il vino. E invece sì, perché lì c'è una delle massime istituzioni di esperti di vino del mondo, che si chiama Institute of Masters of Wine, ed ha sede a Londra, e quindi mi tocca andare una volta al mese. Vabbè, ma allora anche noi dobbiamo fare un po' di ci sono dei wine bar ben forniti di vini italiani. Quella è stata la sorpresa che ho trovato quest'anno rispetto a 10 anni fa. Omar, con tu tante hai belle etichette nostre. Davvero, io non stavo scherzando quando dico che Omar se ne intende. Ma io tu, lui hai un rapporto molto stretto col vino, per tante ragioni. Sì, qualcuno, Veronelli scrisse che il vino è il canto della terra verso il cielo. Quindi per uno che canta, che fa musica, penso che abbia molto a che fare con l'ispirazione. E come hai iniziato? Ho iniziato a godere il vino tardi, cioè mi sono avvicinato al vino a 24-25 anni. Quindi prima facevo fatica a capirlo, sono entrato in contatto grazie a una poesia sul vino di Giacomo Bologna, quindi un autorevole uomo di vigna e di commercio del vino. E insomma, dove si diceva appunto di questa vita poetica, e si intitolava Costruitevi una cantina, quindi è stato un approccio prettamente intellettuale, poi ha prevalso la gola, il gusto e il piacere di dividere un bicchiere di vino con gli amici. Sai che quando Omar arriva in radio, a Radio 24, arriva sempre col vino e noi beviamo sempre. Ah, sì? Come... Sì, beviamo sempre. Perché non sale su alla redazione? Perché ce lo teniamo noi in radio, capito. Perché scusa, non ho capito, dobbiamo mandare. Siamo una grande famiglia però. Allora, adesso confesso che c'è Elena Ligios dall'altra parte del vetro che dice: ma che al marketing non passi. Quindi cioè, ovunque. Basta, ma io non puoi ovunque. Più venire. Elena, che ringrazio che mi ha scorrazzato per il Vin Italy. Ma poi dopo tu l'hai unito un po' anche al tuo lavoro, alla tua ispirazione. Sì, ci sono parecchie canzoni in cui ho parlato del vino, ho fatto un inno al Piemonte, per esempio. E beh, come abbiamo terra. Un Bellasio piemontese. Sì, no, eh? Lo sappiamo, ci intendiamo, fratelli di Piemonte. E quindi diciamo che sulle vie del vino, per uno che ama la terra, è facile arrivare all'arte, alla musica. Quindi ne ho cantato spesso nelle mie canzoni, insomma, perché ne fa sempre parte, così come fa parte della mia vita. Prima Marta diceva che c'è un po' di distacco, soprattutto per i più giovani, da questo mondo, dal punto di vista, che dicevi tu, culturale, della passione, delle storie legate. Come si può superare questa... Ma secondo me stanno cambiando le cose. Diciamo, questo è vero, ciò che dici, ma negli ultimi anni ho avvertito e ho visto una maggiore partecipazione dei giovani al vino. C'è più la tradizione adesso di prendersi una bottiglia o di bere un buon bicchiere in compagnia all'aperitivo. Prima il giovane era più dedito al super alcolico, magari per stordirsi, o alla birra, che è più semplice, è un ottimo prodotto, ma più semplice, più beverino. Io credo che, ecco, non si debba essere troppo snob nel mondo del vino, no? Più cresce l'attenzione verso questo prodotto, si tende a intellettualizzarlo o a farlo diventare elitario. Invece, proprio come insegnano i grandi, il vino comunque è figlio della terra, figlio del mondo contadino, e con quell'approccio lì anche i ragazzi capiscono quanto sia bello e quanto sia buono godersi un bicchiere di vino magari accompagnato, no, con pane e con panatico. Che meraviglia, ragazzi. Io però noi... Ti va di collaborare con la nostra rivista? Ma che belle parole. Vabbè, hai visto che ospite, cioè, sì, ma è bisogna parlare su, adesso qua Bellasio, un contratto in diretta facciamo gli agenti, la mia prima diretta con perché il Bellasio e la Cagnola mi hanno chiamato oggi, te lo dico. Dimmi. Perché mi pare che non riuscissero più dopo tante degustazioni a condurre. No, infatti no, abbiamo mandato un messaggio a Pedrino e ho detto: Omar, io non riesco neanche da sobrio a condurre comunque. A parte allora Omar, nella prima parte noi abbiamo presentato al pubblico il mio sommelier di riferimento, che è Antonio Albanese, però ho un altro intenditore di vino che vorrei mostrarvi alla radio. Sì, no, io sottolineo, seguite la giacca di questo audio. No, aspetta, audio. Non è ancora quella, la giacca, è uno precedente. Scusate, però la giacca qua, seguitela lo stesso. La seguite lo stesso la giacca. Un altro cimelio cinematografico che vi mostriamo alla radio. Sentiamo. Alessandro Torcoli già sa. Sì, suggerito. Eccolo qua. Ho capito. Senta, siccome io oggi compio gli anni. Auguri. Grazie, 100 di questi giorni. Volevo dirle se, cioè, poteva darmi un'ora di bonus di... Se potevo andare... No, perché devo stappare il vino rosso, sa. E allora a un certo momento il vino deve essere stappato prima, se no il profumo. Giusta preoccupazione. E per quale rosso hai optato? Ma un vino semplice, nobile, chiaro, limpido. Un barbaresco del 78. Ah, bello pastoso. No, direi più che bello pastoso, direi bello pastoso. Comunque, se lei potesse darmi quest'ora, dopo recupero settimana prossima. Tanto non è che scappano sempre qua, cioè io lavoro qui. Di fronte a un compleanno non si dice di no. Grazie, molto gentile. Ma perché non un Borgogna a spagnolo e più stagionato? Siamo in guerra con la Francia e poi sul Made in Italy non accetto compromessi. Vai Italia, forza azzurri! Ciao! Beh, giusto, viva il Made in Italy! Più che pastoso, io direi pastoso. Pastoso. Intanto io sto qua che impazzisco perché voglio twittare la foto e non ci riesco. Forse l'ho twittata storta. Allora, Twitter, i nostri account, chiocciola Marta Cagnola, chiocciola di Bellasio. Alessandro, prima ti abbiamo chiesto qualcosa sull'Italia. Abbiamo accennato questa cosa, ma l'Italia può ripartire dal vino? Proprio tutta l'Italia dal vino? Non lo so. Certamente il vino può dare un ottimo contributo, e lo sta dando da tanti anni, a vari livelli. Economicamente funziona. Come stile e comunicazione del Made in Italy nel mondo è fantastico. È un'occasione per parlare, io dico sempre il vino è un veicolo più che altro, per parlare di mille altre storie, come diceva benissimo Omar prima. Quindi quando presenti del vino alla fine cosa racconti? Oltre a tutto, oltre alle viti, come dire, ai luoghi dove tu hai piantato il vigneto, da lì ti allarghi e vai alla tua famiglia, vai al circondario, vai alla tua regione, veramente parli di società, economia, cultura, per cui di sicuro magari non è in grado da solo di far ripartire, ma corrobora, è un cementifica ed è un substrato meraviglioso con il quale proporre tutto il resto. Sicuramente aiuta quando firmi i contratti, secondo me. Io sono arrivato a Londra armato di buon e anche musicisti più illustri di me. Che vino più o meno? Scusa? Che vino hai portato quando sei Ho portato quella Barbera di cui parlavo prima a Marta, che ho il piacere di aver allegrato con una mia poesia sull'etichetta, e mi ha permesso di abbattere delle barriere. Un buon vino italiano, non facciamo preferenze geografiche. In generale, dai, bisogna dire, nel senso, il vino come bevanda è aiuta, socializzante, è giusto fare una trasmissione social e vino, è fondamentale, perché è così, è la stessa cosa. Bevendo acqua, siamo troppo sobri, infatti stiamo lavorando, siamo in servizio, l'hai solo detto? Fino alla fine di RadioTube, ma poi dopo, no, poi Omar, tu hai appunto regalato una poesia, una bottiglia, e poi io mi ricordo anche di una confezione di un vino con il tuo CD. Certo. Quindi tu hai proprio deciso di... Io ho sempre amato questa commistione, questo abbraccio simbolico tra il vino, un po' come fosse la mia musica. Spesso nelle interviste mi piace dire che esco con i dischi, sai che esco molto raramente, questo... Beh, dopo troppe cose anni, da fare, i dischi, la TV, le dopo cose... Dopo otto anni dal precedente, sì, siamo anche colleghi altrove. E, mi piace uscire con un disco quando è pronto, e spesso dico, come il vino, quando no, si sente il profumo all'assaggio che è pronto, lo si mette in bottiglia, se no rimane o nella botte o nella barrica a seconda delle tipologie di vino. Quindi anche la musica questa. È bello contemplarla, lasciarla decantare, respirare. Ma e poi percepire. A fini CD nella barrica? Esatto, questa cosa è stupenda. No, dipende. Dipende anche perché la barrica, sai che è un'arma a doppio taglio. Sì, eleva certo. I vini migliori, ma distrugge quelli peggiori. Sai, tu non lo sai, ma c'è una guerra culturale. Vaglia un po' come la minigonna, la barrica. Il tema del vino è un tema come che viene ideologico. Non siamo in grado di affrontarlo, anche perché vogliamo vedere questa giacca. Non la possiamo vedere subito? No. No, non la possiamo vedere subito. Bravo! Adesso dobbiamo dare... Perché, dai, dillo, ti piace tanto. Dai la linea al... Traffico. Radio Tube. Ci siamo ancora da Vinitaly, e come passa il tempo quando ci diverte lo diciamo sempre, perché siamo arrivati all'ultimo blocco della trasmissione. Oggi, molto interessante. Mi piace questa cosa che la domenica è un po' diversa dal sabato. Ti piace? Mi piace, ma potrebbe... Lo rifacciamo? Pensiamoci, magari pensiamo, non sempre in giro, però vediamo. Che però magari facciamo una puntata diversa al sabato. Potrebbe essere un'idea. Potrebbe essere. Ma magari, vediamo, Vediamo. Vediamo, non promettiamo niente. Se poi viene sempre Omar. Io Omar lo vorrei sempre. Però adesso che mi hai presentato Alessandro, vorrei anche Alessandro, perché mi deve spiegare un sacco sposato di cose. Dall'inizio che te lo dico. Niente, stavo pensando che potremmo essere i tuoi velini. Sì, basta che io non faccio il capito. Tu fai Ricci, Io capito. Tu fai regista, hai il garretto del cavallo di razza. Gli ultimi minuti insieme allo stand del consorzio Tutela Vini d'Abruzzo, padiglione 12, stand 5. Io speravo di far sentire un'altra canzone di Omar, ma sono stata un po' lenta nel chiedere alla povera Valeria, che l'ho fatta impazzire a Milano. Valeria, perdonami, in regia. Però tu hai fatto una canzone nell'ultimo album che ha un po' a che fare. Sì, perdonatemi, ecco il messaggio quasi promozionale, in realtà io ci tengo. In questa galleria di personaggi di cui parlo nel disco sono 14 personaggi, tutti in bilico, un po' insicuri, come siamo tutti un pochino oggi. L'unico personaggio felice è Piero, e Piero tra la campagna e il cielo. Piero fa il contadino, quindi è un po' un appello romantico al ritorno alla terra, un po' olmiano, veronelliano, insomma, di amore, perché comunque il contadino vive in sintonia con la natura e è più felice, ha meno pensieri di noi. Dovete farlo ascoltare, è uno dei più famosi uomini del vino italiano. che si chiama Piero Antinori. Ah beh, certo, l'ho incontrato da poco nella commemorazione di Veronelli e ne abbiamo... Ragazzi, qua sul vino si possono trovare legami, infinite storie. La giacca, tu volevi la giacca? Ma io ci tenevo. Allora, alla radio c'è mostrare un video una giacca in cui però... Daniele Bellasio vuole mostrarvi una giacca del protagonista di Christian De Sica, perché stiamo andando alla ricerca proprio delle chicche che riguardano il vino e la cinematografia e anche la televisione. Abbiamo trovato proprio questo è veramente un grandissimo Ingiustamente non ha vinto il David di Donatello. Ingiustamente non ha vinto il David di Donatello. Però pare che sia stato citato dal Parker in guida con 99 centesimi. Sì, sapete già tutto. Anche sul voto. A questo punto guardiamo. E il nostro Paolo Corleoni ce l'hai, ce la può mostrare. Vai. Allora io ne metto altri 10. Ma sì. Mi farà male. Ma degli. Vabbè. Postiglione? Sì. Tu ne capisci di vini? Caspita. Allora dici come questo vino, perché lui lo trova schifoso, io ottimo. Sì. È un passito secco. Ecco. Con un retrogusto un po' amaro. Tu dicevo io. Sì, ma non è un difetto, visto? È carattere. Carattere. È più che amaro. È salino. Oh, vedi che c'aveva ragione che è salino? Sì. Ma bevi sto vino, dai, io. È salino. Tutto, bevi tutto. Butta giù tutto. E un momento, io devo centellinare. Come centellinare? Dunque, gli antichi greci... Ma vedi, vattene, poi sono andato a finire. Beh, insomma, alla fine l'esperto di vino questa fine fa. Sì, ma questo era saccente. Beh, comunque. No, devo centellinare, ragazzi. Devo centellinare. Così, molti sono ancora così. È la parte filosofica del pasto, il vino, no? Sì, ma non è quindi un simposio. Spesso diventa filosofia. Ma non è un difetto. Potrebbero avere ragione. Ma non è un difetto. Io dico sempre. Beh, ad esempio, quando parli di acidità del vino, al pubblico sembra un difetto. Invece è la spalla fondamentale. Cioè, non è come l'acidità di una donna. Si traduce con freschezza, per non... insomma dare un'idea sbagliata, però vuol dire acidità. Mi sa che Alessandro non lo può dire, ma il tuo vino preferito qual è, Omar? Beh, io è difficile, come no, è la tipica domanda delle 100 pistole, è impossibile per un appassionato rispondere. Dipende dai momenti, quindi oggi... un vino preferito al mattino, ma oggi il fatto è quello che del mattino, ma prima delle 11 al mattino a me piace una bollicina quasi sempre. Io ho fatto degustazioni di champagne alle 7:30 questo è il mio lavoro. No, beh, si regge tutto. Sì, guarda, al mattino il palato è al meglio. Se vuoi capire qualcosa di vino. Quindi niente cappuccino però? Niente, prima. Come insegnava l'avvocato. Io che ancora la mattina bevo il caffè, quante invece dovrei... Quante cose che dobbiamo ancora no, imparare. No, sei indietro, anch'io, se vuoi capire il anch'io vino. Anch'io la bollicina non la disdegno, quindi proverò. Però la bollicina non... cioè, poi dopo, alla fine... No, i rossi sono i rossi. Chiude con i passiti, si magari. Può chiudere, magari rossi. L'evoluzione poi sta al palato di ognuno di noi, al profumo. Però è giusto partire da uno adatto per quando sei a stomaco vuoto, così come non so, un amarone, visto che siamo a Verona. Quando non lo prenderei mai a inizio pasto, ma lo prediligo a fine pasto. Domanda trabocchetto però, ma a cosa abbineresti un amarone qui? Oh, sai che un amarone si può abbinare con tante cose, perché è un vino che ha delle sfumature dolci, salino, sapido, ma non è un pastoso, ma non è pastoso. È dolciastro, quindi non dire dolciastro, qua c'è mezzo vaporicella che ti aspetterà fuori. Sì, sì, beh, sono un grande appassionato. Ha delle sfumature di frutta matura, quindi un grande scrittore inglese aveva detto illusione di dolcezza, mi piace tantissimo per l'amarone, che non è dolce veramente, illusione di dolcezza anche per la vita, mi sembra una bella illusione definizione. Quindi Marta, invece, rimetti ordine. Io per me il mio preferito, no, tu stai qui, fai sette mio... cose assieme, ma certo, faccio sempre le cose social. No, io anch'io vorrei dire una cosa sull'amarone. È rosso. Questo lo sai. E sapete con cosa lo mangerei io? Cosa lo abbinerei? Con il tordo. Il tordo. E bicchiere. 5 calici sfasati sulla sinistra, altri 5 sfasati sulla destra. Da quale parte bere? Ma non la siete impiegata? Ho la salivazione leggerissimamente azzerata. E allora beva. Ma che fa? Mi leggo la mano. Vede, ho la linea della fortuna. Tordo! La cosa più difficile in natura. Alla fine decisione tragica. Tordo intero. Colori di Fantozzi. Rosso, rosso pompeiano, arancio aragosta, viola addobbo funebre, blu tenebra. Sul blu tenebra Fantozzi andò in coma cardiorespiratorio. Il blu tenebra, sul blu tenebra andò. Allora, siamo in diretta qua, stiamo cambiando un microfono. Daniele Bellasio ha ceduto cavallerescamente il suo microfono. Io però ci tenevo ad avere anche solo per un minuto con il fiatone. Sì, cazzo, ho fatto una corsa. Hai fatto una corsa perché eri prigioniera dei cinesi, esatto. Ai quali dovevi spiegare delle cose sul vino italiano. Veramente erano loro che volevano spiegarle a noi, più che altro. Ecco, Fernanda Roggero, adesso alle 24 ore. Buongiorno, Fernanda, oltre ad essere un'amica dei social, io voglio chiederti cosa sta succedendo, perché io stavo qua guardando Vini 24. Tu stai tutto su Food 24, tu sei la nostra colonna del cibo. Infatti quando lei posta di quelle cose sui social, mi fa venire un'invidia. Io sempre a dieta, lei che posta le bresaole di foca. Ha postato le bresaole di foca. Cosa sta succedendo, Fernanda, in questi giorni? Nuovi fermenti? Beh sì, c'è questa novità perché abbiamo fatto un accordo con Vinitaly e abbiamo creato questo wine club, per cui praticamente c'è un club dei vini, una selezione speciale di vini italiani che verrà offerta in e-commerce ai lettori del Sole 24 Ore. Beh, vedi, siamo foodissimi. Adesso Daniele Bellasio non può più parlare perché gli abbiamo tolto il microfono, quindi lui adesso sta ballando, sta facendo cose. Siamo veramente agli sgoccioli con il nostro RadioTube, però abbiamo questi ospiti straordinari. Voglio chiedere come ultima domanda al nostro Alessandro Torcole e a Omar Pedrini, poi lo chiederò anche a Fernanda, ma siccome adesso va di moda fotografare tutti i cibi quando si mangiano, ma succede anche col vino? Facciamo Insta Wine e Instagrammiamo tutti? Beh, sì, sulle etichette sì, non tanto sui calici, perché poi alla fine non renderebbe molto la sfumatura di colore, ma le etichette sì. Le etichette, sì, quindi ho beviamo, bevuto questo, quello sotto scrive che schifo, no, eccezionale. Fotografiamo, postiamo, tagghiamo sui social i vini che beviamo. L'etichetta sì. Si fa tanto, molto di più sul cibo, devo dire, cioè sui piatti al ristorante, anzi lì c'è una polemica, ma praticamente ormai fotografiamo tutto quello che ci capita. Anzi, l'etichetta è una cosa più da grande intenditore. Non abbiamo più il gusto di mangiare perché dobbiamo fotografarlo. Quindi molti ristoranti hanno vietato le foto. Straordinario, sì, perché ormai la gente non mangia più e fotografa. Tu, Omar, battuta finale, anche tu fotografare, visto che tu stai. Sto cercando una foto dell'ultima verticale. Vedi che volevo farla vedere. Siamo tutti super social, quindi anche tu bevi un bel vino, lo fotografi l'etichetta e lo twitti, no, era lo soltanto Instagram. Per fare invidia a un po' di amici, quindi l'ho mandata. Ecco. Era volgare come uso. Straordinario. Beh, insomma, io sono contenta di aver avuto questi ospiti, sono molto più contenta ancora perché Daniele Bellasio l'abbiamo proprio, è lì che ci facciamo con la manina, l'abbiamo proprio esautorato. Daniele, non ti preoccupare perché da sabato prossimo ti rivolgo il saggio con Daniele. Me. Sì, non ti sto defenestrando per sempre. Abbiamo l'ultimo momento per stare insieme, quindi io ringrazio e saluto i nostri ospiti, Alessandro Torcoli, Civiltà del Bere, Civiltà Bere o Torcoli Wine, che sono i tuoi account di Twitter, perché intanto noi lavoriamo sempre con Twitter, che ci ha illuminato. Fernanda, che finalmente è arrivata, la nostra Fernanda Roggero, l'abbiamo presa per un qualche secondo, ma ce l'abbiamo fatta, ci tenevamo. E anche lei, insomma, Food 24 ci racconta tutte le novità del Sole 24 Ore in merito al cibo. E poi, vabbè, un abbraccio a Omar Pedrini. Grazie. Chiocciola Pedrini Omar, mi fa impazzire. Grazie per essere stato con noi, un esperto di vini, di musica, una persona a cui vogliamo un bene enorme. Io ringrazio anche Paolo Corleoni e Davide Ciocia, che sono stati qua a sopportarci, Valeria Bernardi da Milano, che ci ha fatto regia. Ricordo che ci saranno un sacco di trasmissioni in diretta qui da Vinitaly nei prossimi giorni, quindi voi passate qui allo stand qui all'Abruzzo, padiglione magari 12. Magari ci scappa un buon Montepulciano d'Abruzzo. Si potrebbe fare. Noi invece ci ritroviamo sabato prossimo con RadioTube. A presto.